Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buone nuove dalla ricerca. Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bari e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha progettato e sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere 10 anni prima l'insorgere dell'Alzheimer con un'accuratezza pari all'84%. Il lavoro, che è in fase di pubblicazione, ha subito suscitato l'interesse in ambito clinico e accademico perché potrebbe aprire a nuove prospettive terapeutiche. A Obiettivo Salute il professor Roberto Bellotti del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari ci racconta la ricerca. Certamente le considerazioni che ha fatto sono corrette. L'idea è quella di selezionare con la maggiore precisione possibile le persone che svilupperanno la malattia nel futuro, in modo da poter avviare su quelle persone una corretta sperimentazione dei farmaci in grado di arrestare o rallentare la malattia. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato su immagini cerebrali particolarmente complesse. Abbiamo sviluppato dei software basati su intelligenza artificiale che utilizzano grandi potenze di calcolo. In particolare nel nostro caso utilizziamo circa 1000 computer insieme per effettuare questa analisi. Se volete sapere di più, l'intervista al professor Bellotti sulle pagine di Obiettivo Salute. Imparare a leggere e interpretare le informazioni scritte nel nostro DNA per trovare il modo di armare il sistema immunitario contro i tumori. E questa è la sfida con cui si confronta in questi anni la ricerca. Se ne discute al Congresso Mondiale The Future of Science, che è in corso in questi giorni a Venezia, e a Obiettivo Salute ascoltiamo il commento del professor Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico di Humanitas. L'analisi del sistema immunitario quando abbiamo un tumore ci ha fatto capire che il nostro sistema è addormentato o addirittura corrotto. Ebbene, togliere i freni al sistema immunitario si sta rivelando efficace nella lotta contro diversi tumori. L'immunologia e l'immunoterapia rappresentano la nuova frontiera della lotta contro il cancro. Immunologia, la nuova frontiera della lotta contro il cancro. Per saperne di più, l'intervista al professor Alberto Mantovani sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi, cari amici, è tutto. La programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io invece vi aspetto per la diretta Facebook. Parliamo di Alzheimer, oggi è la giornata mondiale, insieme al professor Iannacone del San Raffaele di Milano. Obiettivo Salute torna domani a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.